Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e ben ritrovati da Nicoletta. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata della sepsi, che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione su questa malattia che, nonostante sia in aumento, viene spesso sottovalutata. Febbre alta, senso di debolezza, fiato corto, confusione mentale, pressione bassa e difficoltà a urinare. Questa è una batteria di sintomi che potrebbe essere la spia di questa grave infezione che richiede il tempestivo intervento medico. A Obiettivo Salute, Ida Di Giacinto, anestesista, rianimatore all'ospedale universitario Sant'Orsola Malpighi di Bologna. La Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva si è allineata alla campagna mondiale della sensibilizzazione sulla sepsi della popolazione generale e che si svolge proprio oggi, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato la sepsi come una emergenza clinica che può portare a morte un paziente. Per tale motivo riconoscerla e prevenirla risulta fondamentale. La campagna è una campagna che viene rivolta a tutta la popolazione generale, perché la sepsi si combatte all'esterno della terapia intensiva e non all'interno. Per tale motivo riconoscerla tempestivamente con una lotta contro il tempo permette di salvare vite umane. Per saperne di più sulle pagine di Obiettivo Salute potete trovare l'intervista alla nostra esperta. Uno studio pubblicato su JAMA Otolaryngology ha misurato gli effetti della dieta sul reflusso gastrico, facendo un confronto con il trattamento classico a base di farmaci e di protettori gastrici. E la dieta si è dimostrata efficace almeno in egual misura. A Obiettivo Salute, Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. Questo studio specifico legato al confronto è uno studio di coorte, cioè uno studio retrospettivo. Se andate a vedere all'indietro, le persone che con certi tipi di sintomatologia, un migliaio di persone, prendevano farmaci e evitavano, come al solito si dice, il caffè, il tè, l'alcol, i fritti, cioè tutte quelle che sono le indicazioni che anche molti italiani conoscono, e dall'altra parte invece un altro migliaio di persone a cui è stata imposta una dieta per 6 settimane molto simile un po' alla dieta mediterranea e un po' alla dieta paleo, cioè si è ridotta un po' la presenza di cibi industriali costruiti, molta frutta, molta verdura e un po' di acqua lievemente alcalinizzata. Devo dire, parliamo delle acque normali. Ebbene, a distanza di 6 settimane si è potuto vedere che c'è stata una netta riduzione della sintomatologia sia nelle persone che ovviamente prendevano i farmaci e evitavano grassi, fritti, eccetera, sia in quelli che avevano iniziato una dieta differente e con una funzione antinfiammatoria e un'azione di questo tipo. E per oggi è tutto, ma prima di salutarvi vi ricordo che, come sempre, sulla pagina di Obiettivo Salute ci sono i video consigli per i primi giorni di scuola di Alberto Pellai e che tra poco siamo in diretta Facebook per prevenire o nel caso sciogliere le tensioni muscolari. A domani alle 12 come sempre, quando scocca l'ora della salute.